questi. Non compiuto la fanculo, ma computer è bello, però alza la vista, signore. Allora, alza la vista. Faccio un cucciolino di occhi, di una media, faccio il primo, ma ora c'è un freddo, va bene, no? E il babbo è lì. E ti chiedi il babbo, che affreddo lì? Che affreddo lì? Vedete, è terremoto, ragazzi. Sono quasi... Sono qualche... Sono mi alzo, no? Mi scrivo, mi ha fatto i pantaloni. Attento Roberto Quadrato, canale 5, cambio. Attento Roberto. Sono Luca. Cattura, sì. E io, infatti sono sentito di sbattere. No, c'è questo americano, arriva a bomba, no? Ma nulla. Ma che ci sei? E io. È scoppiato, voglio dire. No. Ho detto, Luna, vado mi alzo. Che vado, so il cucino, mi seguo, mi caccia il pantalone e le scarpe. Lugo, si fa. Anche il mio fa così. Maledetta, ragazzi. Venga, Luna, beh. È carino, autosatto, vabbè, vabbè. Tutto a puerco. Vabbè, me siete tutti e due, anche te Luca, c'è qualche altro. Ma c'è adesso, ero sul sì, memorizzato, la gente giusto americano. Veramente mi risenti l'americano, ho capito però di dov'è, non riesco a capire, lo stavo ascoltando. Niente, so che qua. Guarda, sono fatto due passi di stamattina, tutto il resto adesso. Adesso quest'ora, prima non c'è un mutuato. Ma già sta lavorando lui? No, certo, Rob, non sta sbagliato. Ecco, non ci posso dire, dai, questa settimana all'altra, di Dio, se Dio vuole. Ciao, Roberto. Ciao. Dimmi una cosa, alle 5 esce? No. Ma devo fare le 2. Tutta la mattina, bella sera, c'era lì, perché cosa fai la sera, nulla? Riposo, Rob, riposo. Vabbè, come dice col tempo, mi chiama quello che c'è di a casa lì, dai, in affitto a te, che te ne attende. Cosa, Roberto? Eia. Vabbè, l'importante è di paghi, sei tranquillo. La cavolta ti ha bruciato qualcosa o sbaglio? Penso più di 21 babosi. E vabbè, fate dare nella prima, fanno il baglia oppure fateli garantire. Infatti, è la stessa cosa che ti posso dire. Ti fai il culo, tipo lui, c'è la piazza di 10 tende, ogni tende ti ho 20 euro, quando sono 200 euro, giusto? Che bongo lì! Che mi bongo 4, non sempre 200 euro mi dirà, no, non credi? È giusto, quando poi il lavoro è lavorato bisogna pagarlo, quello è poco ma sicuro. Io la vedo. Vabbè, io ho contratto prima, che con... Allora, non te lo devi trattare, quanto mi dai? Tu mi garantisci molti soldi a me. Se non mi garantisci i soldi, prima burro mi guardo da. Cioè, mi dirà prima, questo non brillo. No, io guarda, non è cattivo, già in gamma è una brava persona Roberto, non gli posso dire niente, perché, però molte volte è svogliata, guarda, quasi se ne siamo dimenticati o meno, non lo so, cosa ti ha detto lui? No, io si mi ha dati. Dice che te l'ha già là. Poi, non sapete, ma se non parlo io, se no ti va a come attacco Mari, Roberto, capito? A lui è che hanno bruciato forte qualche migliaio di euro, l'hanno seduto per terra, una dipa, l'ha bruciato. L'ha fatto bene allora. La madre brucia l'altro, capito? Se va di un 600 euro, 100 euro all'altro, si recupera i soldi. Però va bene. No, quello no. Vediamo, Falche, avanti Falche. Oh, la madre nell'antenatura, Falche, se è quella che si vede dalla strada dove c'è il grattacielo, chi l'ha detto tutta bucata in terra? Chi ha detto che tutta bucata in terra davanti? Chi l'ha vista dice molto piegata, ma non è tanto piegata, Ah cosa, che non mi fa di nulla, magari dritta è meglio che lavora meglio, ma io pensavo buccata in terra appiccicata tipo quella di Mario a 90 gradi, invece non sarà perfettamente a piombo, ma già può andare lo stesso, lì si ne vede l'antenna e buffi male. Proprio come, già andare a me, l'unica cosa è l'avevo un po' sollevare qualche metro ancora e basta. tu la sollevi un pochettino di più e vai alla grande. C'è quel palazzo, magari un po' ti dà fastidio, però non ci puoi fare niente, ma c'è una bella posizione, ho visto, di spari che è una meraviglia. Ah, basta un paio di metri, di me, almeno 3 metri dal punto più basso del solaio, dal punto più alto del solaio, e andi alla grande. Già stai andando alla grande così. Io sollevo, beh, 2 metri alta, capito, non tu vuoi destra dall'altro, però già sollevo un altro metro, uno di più, un altro metro la sollevo, eh. E te lo infili dentro, te ne scopi, con quello più grosso di sotto gli infili un altro tubo, non sbagli, lo bulloni e non sai, no? Se sali più di 3 metri devi metterci tirati, se ci allunghi di un periodo un altro metro e mezzo, e cosa non c'è bisogno. Ok, c'è qualche altro qua su questo canale, non ho fatto ascolto, Luca. Vabbè, no, c'era Luca, io e basta per il momento. Ma dove sta Giulio? Stasera è passato in officina, non ha tanto che non lo sentivo, in app è gialla, ossia che non lo vega nessuno, mi deve entrare la sera, dice che lui purtroppo finisce tardi, per una cosa l'altra arriva troppo tardi. Ah Giulio, ieri mi sono messo entrato. No, sono un po' che non lo sento in frequenza, allora, tipo in gamba, niente da dire, tanto di cappello. Falegname sta dicendo. Falegname, dollaro. Oh, c'era anche ieri per questo. Ma tardi sta dicendo? Ieri sera. Sì, ma a che ora? Sette e mezza. Non so se non mi sono neanche accorto, c'avevo la radio accesa, c'ero anche io ieri, però forse non, se non è coinciso. Forse è coinciso. Andiamo bene, attenzione, vediamo un po' sul 5 se è entrato qualcuno, facciamo un attimino di pausa, vediamo chi vuole entrare, avanti, con la buonasera. Nulla, Luca si è perso in cammino, Luca ci sei ancora? Fammi una gradatoria dei segnali, a parte me, a me che sono vicino, parliamo di tutti gli altri, dopo di me chi è il secondo? Il secondo dovrebbe essere Gianni da Pierù. Cacchio, prima di cosa, Gianni da Pierù arriva più forte di Antonello Pompugno. Sì, è normale. Addirittura, è più forte di Luca, ma in Marietta non è più forte di Luca. No, sono a pari con Luca. E Mario Manse? Mario Manse mi arriva un pelino più piccolo di te. E quindi più forte allora è Mario Manse, dopo di me. Sì, dopo di te Mario Manse. Perché a me, come ordine, a parte vabbè, quando attacca quello bracco, quell'amico mio, il più forte è coso, è Antonello Pompugno. Poi ci sei tu, poi c'è Luca e Mario Manse, se la giocano uno con l'altra, sono tutti e due furti. Poi c'è, vabbè, non cerchiamo gli altri, quelli che non stanno entrando, tipo Claudio, Franco, quelli che non stanno più entrando, perché sennò loro arrivavano più forti. Poi c'era coso, dopo di questi c'era Natalino, e poi dopo il Natalino c'è Gianni e poi Gabriele. Ah, Giuseppe c'è più o meno lo stesso segnale di Gianni, un po' di meno, dai. E poi Saverio è più forte di Gianni, vabbè, perché è più vicino. E poi ci sono tutti gli altri, Pierpaolo, Antonio e così via. Più o meno così, più o meno così, dai. Comunque qua nella mia postazione, tu sei più forte qua, per adesso. Finché non arriva Claudio, quando arriva Claudio scioglie a tutti. Quando arriva Claudio scioglie a tutti a qui. Infatti se arriva Claudio anche io, io mi vado in buffeggia. Sarà più forte Claudio la terra ormai. Sì, già lo credo. Oh, aspetta un attimino. C'è Claudio e c'è anche coso, come si chiama? Fabietto, quello che abita attaccato a me. Oh sì, se non mangia meglio, senza buffeggia. Allora io quello lì lo ascolto senza antenna, con l'antenna attaccata l'ascolto, e stavo uscendo con un dipolo. Vabbè, ti sposti da me e poi non lo sente nessuno, ma probabilmente siamo attaccati, non so esattamente dove abita, me l'ha detto più o meno, ho capito più o meno la zona, ma io penso in linea d'aria saremo a 200 metri, Claudio è un po' di più, dai. Però Claudio c'ha l'antenna e tutto quanto. Però Guido, qui scende con un dipolo, che voi giù mai non lo sentivate, a me mi arriva a fondo scala, giù mai, 950. Sì, ma vabbè, noi stiamo parlando di parità di apparato, poi se iniziamo a caricare, a mettere in lineare compagnia bella, allora non ce n'è per nessuno, se la postazione mia è forte, attenzione, la mia postazione non scherza. No, ci mancherebbe, però Claudio, l'hai visto dove va a abitare Claudio, dove ritorna a abitare, non so se hai capito tu. Sì, già ho capito. di lì fa danno, di lì senza mettere potenza né niente, a me mi arriva, io non penso meno di 9,50, 9,55, mi arriva perché siamo vicinissimi, le antenne si vedono una con l'altra, per cui non c'è problema. A livello di ricezione ammazzerà tutti, dai, per la zona dove tu parli con Coso, che adesso sei numero uno tu, con Domenico, di lì ammazza tutti, perché quando c'era lui sentiva segnali che io neanche riuscivo a percepire, proprio zero. Però lui c'ha una posizione invidiabile, magari dove era giù prima per il mare andava meglio, dove adesso per il mare non ce ne c'è, cioè è un po' peggio, però per Alghero ammazza tutti, io non sono più numero uno per Alghero, dai. Allora senti, vabbè, l'importante è sentirci e farsi ascoltare poi, chi è più forte, meno forte, non sono geloso io, non puoi passarne. No, io non sto parlando di farmi sentire, no, a Crebadura, perché magari li metto lineare e ti sentono anche a Parigi, io sto parlando di ascoltare, è inutile che tu tiri potenza, è cosa mi da putti che tu c'hai un kilowatt, io esco con 5 watt e ti sentono, per dire, molto più forte di me, io sto parlando a sentire io quelli che gli altri non sentono, e quello è bello, la qualità della stazione si valuta lì, quando tu senti e gli altri non ascolta nessuno, quello è l'importante. Quello che dico io fino ad oggi, ripeto, ho parlato, non solo ho parlato, ma ho ricevuto, che è molto importante ricevere, attenzione, è molto importante ricevere, non parlare, perché a parlare si sta dappertutto, è ricevere le persone, capito? Vabbè, finché ricevi va più che bene, ma è inutile che ti sentano e tu non senti gli altri, hai fatto un buco nell'acqua. Già lo credo, cosa dici lui in merito? Beh, non lo dice però per una risposta, ma non c'è bisogno di dirlo a nessuno, infatti io dico, è inutile avere una stazione che ci mette un kilowatt sopra, io mi voglio anche ascoltare, infatti il desiderio mio è mettere l'antenna per ricevere, non solo per farmi sentire. Infatti, vabbè, io grazie a Dio da quando ho montato questa, guarda, sento il minimo fruscio, adesso un po'. $1 per l'antenna. Sì, va bene. Io ho detto $2, tanto per dire, no? Però in effetti così, tu a me quante volte me lo dicevi, perché vedrai quando metterà l'antenna, non ce n'è per nessuno, perché vedrai quando metterà l'antenna, me ho messo l'antenna e grazie a Dio e si è verificato quello che tu mi hai detto. E dimmi un po', c'è più soddisfazione a dire a essere l'unico che parla con Domenico, cioè che parla, che ascolta Domenico sino agli altri dove non lo prende nessuno, o c'è più soddisfazione attaccare un lineare da 500 watt e parlare con Urbia per dire, però non intende nessuno. La prima risposta è quella verbale. Cioè, è più bello sentire più che ricevere, cioè più ricevere che trasmettere, perché intanto quando tu trasmetti spari, vatti, lineare, compagnia, non ha senso, è inutile che tu spari che chilometri e vatti, che poi alla fine non senti quello che ti risponde, è un pugno, cioè un pugno a occhio, vai. Non lo credo. Capito? Quando c'ho tempo poi ne riparleremo, chi ascolta più lontano. Va bene. Adesso mi metto un angolino e dico hai vinto tu. Ma non so, non facciamo paragone, vabbè, caspita, dai. Vedi, anche da Carino, per esempio, qualche volta lui non ascolta, eppure adesso si abbia fatto un bel palo grande. Però molte volte non riesce a copiare le persone, capito? Sì, non lo so, per forza è normale, ma ci sono gente che, bene, da Carino nella zona del mare era uno dei più forti, dove ero io giù a Plattamona, Carino era uno di quelli che arrivava meglio di tutti. Sì, pienamente d'accordo. Mentre lì io sono molto più basso di tutta la zona del monte, quelli che sono al monte, tipo Gianni, quando c'era giù Claudio, eccetera, eccetera, ma mi cribavano come segnale di lì. Però, di lì dal monte, se tu parli per Alghero, io vi faccio, vabbè, capelli a tutti. Sì, quello è vero, perché la tua zona è aperta, è come la mia zona, allora ripeto, vabbè, la mia zona per Plattamona, cioè verso, però verso, per andare a Castel, è chiusa la mia zona, capito? Ma è sai, dopo che ha cessato si riapre la, la zona, capito? Adesso vale due, vale già venire. Allora mi si riapre un po' la zona. Però la zona mia, proprio la, quella aperta, e adesso Cagliari, capito? Cagliari, Alghero, Stintino, capito, vai? Troaghe, tutti quei paesi lì, capito? Sì, sì. Però all'Alghero, mi dispiace dirtelo, non mi batti, Falca, perché a me Bondino, quando voi non lo sentite, è l'unico che parla è con me. L'unico che senti, te lo sento io, quando c'è un medico RM, c'è disturbo. Nessuno di voi lo sente, io riesco a segnarlo fuori sempre. Sì, ma io non lo sentivo col bastone, ma adesso c'è un'antenna, insomma, non è questa grande antenna, ma ho un'antenna per poterlo sentire. Sì, sì, capa, no, ma sto dicendo, in certe situazioni, quando lui non si aiuta ad essere pulito, pulito, quasi nessuno, cioè di voi non lo risponde nessuno. Lui dice, l'unico che sento è te, infatti ci spostiamo molte volte, perché voi non lo sentite, no, per vantarmi, ma sono i fatti quelli. In effetti, in coso, su Alghero, che quando sono i segnali proprio che magari sono stati a voi 5 e 6, voi non li sentite più, perché correme vi credo. Dipende sempre. A volte, adesso per esempio una sera stava a un patatone e c'era un casino di QRM, eppure a lui lo tiravo fuori e poi non la pizza. Sì, non lo metto in dubbio, perché naturalmente anche oltre che come coso c'era Mondino, c'è Coso, come si chiama, oltre Mondino c'era, come si chiama, non mi viene la parola, come si chiama quell'altro di Alghero, Finangelo, che arrivava forte, Carlo, a me tutti 9-10, 9-15 arrivavano quelli lì, gli altri, Angelino, li sentivo tutti, ma io addirittura li sentivo anche dentro il porto, gli altri dentro il porto nessuno li ascolta da Alghero. No, io li ho sentiti la verità, dentro la macchina, dentro il porto, con la barca fuori, quando ci va fuori dietro Capocaccia, non mi ricordo come si chiamava quel pescatore, l'unico che ascoltavo ero io, non mi ricordo come si chiamava, lo sentivo meglio in mare a lui, che come si chiama, quando era dietro Capocaccia, per dire io dietro Capocaccia c'è la montagna, non potrei sentirlo, eppure lui mi sentiva, io sentivo a lui, poi si avvicinava al porto, per dire era più vicino e più aperto, lì perdevo, si abbassava il segnale, però fuori dal coso, io lo sentivo perfettamente, dietro Capocaccia aveva questa montagna. Perché magari lì l'onda sbatteva di più, capito? Ed è più aperto per quella zona lì. Cappa, non c'è problema. Dai, facciamo la chiamata su 5. Io sto mangiando un pezzo di pane, se si intende. Cioè, vediamo su 5 se c'è qualcuno. Avanti, chi vuole entrare? Quello che mi meraviglia è che tu per muro tu sei negativo, quello lì che io non mi do una spiegazione, cioè Pepo Hacker che è molto più lontano ascolti meglio di me, per muro che è molto più vicino sei peggio, molto ma molto inferiore a me. Infatti non capisco questa grande differenza. È inspiegabile, molte volte è capitato a me. Per dire, le zone tipo Sorso, Sinoni, non è che sono molto favorevoli per me, sono più favorevoli per quelli del Monte, per Luca, per Gian. C'era, pare, l'anno scorso, questo tipo di Sinoni. Io l'ascoltavo perfettamente, più di 9 era il segnale, Luca non riusciva a sentirlo e mi diceva, ma con chi stai parlando? Io pensavo che stesse prendendo in giro. Quando io lo sentivo più di Santiago 9, Luca non lo sentiva per niente. Chissà qua cosa, forse l'onda riusciva a passare in un angolino e io lo sentivo perfetto. E lui non riusciva neanche a capire quello che stava dicendo. Infatti, è quello che ti volevo dire, è così, capito? Molte volte Luca, a domenico, quando arriva dopo Braga lì, per dire, che arriva a Bibbia, non lo sente più. Ma io lo sento, capito? Lo sento oltre Bibbia di Ardala, oltre la Repubblettore, oltre ancora il Repubblettore dove aveva deciso Carabinieri, capito? Io a domenico lo sentivo fino a lì. Capa, però io di domenico, siccome mi stanno venendo dei dubbi, io lo sentivo sino al distributore, piccolo ma lo sentivo sempre, mi ha detto Antonello Pompugno che lui è spostato leggermente di frequenza, infatti voglio controllare quello lì, siccome questi apparati sono molto stretti come ricezione, se si è appena spostato, ma ripeti, voglio fare la prova come ha detto, come si chiama Antonello, perché io lo sentivo più avanti, poi di colpo in questi giorni lo sento prima, arriva dopo il video di Adana e poi non lo sento più. Si è spostato lui di frequenza. Molte volte con questi doppi modulatori e cose del genere l'apparato si sta da un pochettino, oppure magari ti sposti di frequenza, non è perfettamente centrato, è normale, perché magari sono un po' spinti, non lo so che cazzo li fanno. Infatti io voglio fare la prova che mi ha fatto Antonella. perché Antonello lui con quarantemino che c'ha, lui ci va a sentirlo come lo sentivo io più o meno, gli stessi rapporti di segnale aveva. Infatti. Basta parlare a provare. Ah, no, l'ho sentito domenico, giù, non sta trabaccando, non lo so, sempre su 5 lui va. Sì, lui sta sempre su 5, poi magari si sposta, ma come che noi stiamo modulando sul 10 per dire, o... allora si sposta, capito? Scappa. Cavolo, mica stazionario. non mi fighi. Fammela proprio, aspetta, ti apro un po'. Guarda, guarda. Allora. Adesso tutto abbassato, come? Ottimo, perfetto, livello giusto. Non lo sento nessuno, solo te sento basso. E cosa stai parlando, del Mickey Game o del Refrain Game? Mickey Game. Quando sento solo, non sento nessuno, spiegate, non ho capito. Quando modulo in modo la portante, sento solo a te. Ma non è che hai chiuso le Refrain Game tu, è Refrain Game, è scritto. Refrain Game. Non c'è niente con Mickey Game quello. Ah, ecco, adesso lo sto sollevando, al massimo. Quello ti attenua i segnali, ti fa passare solo i segnali più forti, ma a Luca dovresti sentirlo. Per Paolo quanto ti arriva per curiosità? Per Paolo un po' passaggio, verrà? Più o meno, dai, no, poi ci arriva. No, 8 arriva. 7, 8, dai. E Luca quanto ti arriva? 9,20 ci arriva. No. Ma dimmi quanto ti arrivo io, con tutte le fregine in aperto, dimmelo per curiosità. Allora, con tutte le fregine aperto mi arrivi, fa passaggio, ora, quasi 9,30. L'altro giorno mi ha detto 9,20, ha detto ma che strano, questa antenna che ti dice che siano così bassi i segnali. No, 9,30 sì, dai, 9... a picchi positivi, dai, vicino al 30, sì, dai. Guarda un po' se cambia qualcosa. Ora. Adesso è cambiato. Di più, K. E quando arriva, ora il fischio. 9,30 e più, diciamo, dai. K, aspetta, torniamo tutto a fondo. Prima. Però mi sembra un po' affaruccio qualcosa, lo sai, come indicatore. Ma l'ha fatto nuovo o vecchio? No, seconda mano. Perché mi sembra un po' rizio, se mi saranno un rapporto di quasi 9,30. E Luca, per curiosità, quanto ti arriva? Dovrebbe arrivare a 9,10. E Luca mi arriva a 9,10, te l'ho detto. Perché teoricamente dovresti avere un rapporto molto più forte, perché se tu mi arrivi 9,40 qua, con i picchi positivi, tu dovresti, come si chiama, io ti dovrei arrivare anche più forte, teoricamente. Lo so, ma tu invece mi arrivi, l'ago si ferma lì a quasi a 30, dai. E in FM di più ti arrivo più forte. Basta, fa la prova. Prova. Vedo una sillaba qua. Vai adesso. Ora. Molto più forte. Quanto di segnale? 9,40 sì. E qua tu sei fondo scala, anche attenuato sei sempre fondo scala. Va bene, torniamo in M, dai. Gappa. Roberto, non te lo dico io il segnale. Che fa, Roberto? Che è? Chi è che ti chiama? Per forza la chiamata FM, controllo, vai. Io ero, qua sono FM, te lo dico, controllo. Allora. Ci sono? Ci sono, fai. Siccome ci abbiamo quasi lo stesso baracchino con il parchetto, 9,80 sì, qua. Non lo dello stesso baracchino. Ci abbiamo lo stesso baracchino, però questo è modificato, ma lo smitta è lo stesso. 9,80 sì, qua. Ma come mai il parchetto mi ascolta neanche 9,30 a casa sua in AM e 9,40 in FM, che dovrei lasciarli tutto. Ma come fa a darti cazzo, vabbè, come fa a darti 9,40 se lo smette la riva fino a 9,30? Così ha detto, io cosa ne so, non posso fare, so, gli apparecchi professionali. Cioè c'è qualche baracchino che arriva a 9,40, è il Magnum, se non mi vorrei sbagliare. Sì. cioè noi non mi arrivano le 40, però i baracchini professionali, come abbiamo noi, roba, arrivano a 60. Oh, io i due intesi del giorno stanno in base arrivano a 60. Mi sembra che esista, non so, non mi vorrei sbagliare. Però diciamo la maggior parte di questi apparecchi professionali, come si dice, hanno 9,60. Ha ragione Robè, ha ragione, breva, fino a 9,30 arriva, cazzo 9,40. Ma 9,30 va, dopo 9,30 c'è il fondo scala, così. Appa. Ma ti arriva a fondo scala in FM? No. Ecco. Io boh, tutti fondo scala li sento in FM, tutti quanti. Guarda che mi sembra che c'era, Gianni adesso ha fatto chiamata anche Giuseppe, avanti Gianni o Giuseppe, dai. Avanti con Giuseppe. Sera, buonasera a tutti, qui Giuseppe che mi fa chiamata, buonasera Pierpaolo, buonasera Doppio Ru, Panchetto, Luca e Roberto, capa. Ciao Giuseppe, buonasera, ben sentito, qua il segnale più forte è il tuo. E va, tu sei 9,60 qua in FM, sei sul DB, e Giuseppe è a fondo, sulla W, Gianni quasi sulla W, Roberto lo stesso. Il segnale più forte è quello di Giuseppe qua. E io? Prova. Hola, hola. Tu sei 9,60, abbondante. Ciao. Oh, andiamo in AM però, ragazzi. Ciao. Infatti, sono qua, oh, ai vatte, troppo. Che ne fai, mi fa male questo, dai. Comunque è più spinto in FM. E chi io? No, sta qua la radio, spingi più in FM. Cosa roba? Allora sai quanto è dato il 140? Senza essere manomesso, in AM è 40 watt, 100 in FM, il 440, 50 in AM e 100, 110, 120 in FM. Queste sono le cose dichiarate. Poi se fai qualche lavoretto o qualcosa in più riesci a tirare fuori. Ma già quando come radio già fungono. Poi che ripeto, devo scaldare. Poi se tu qualche affreddo non lo so, vabbè. Babbo, ciao Gianni, anche a te, ben sentito, dai. Ragazzi, ciao Gianni, Giuseppe ho già salutato. Come si dice? Ma riprendi tu già. Buonasera a tutti, dai, ciao Giuseppe, ciao Pierpaolo, Roberto, Luca, Falchetto, insomma tutti quelli che ci sono in rotta, dai. Pensi di tutti, doppio room in frequenza, vai. Appa, salutori doppio ruolo dalla stazione di Falchetto, salutori a Vela e salutori a Giuseppe, avanti Giuseppe. Un attimo Falchetto, ci tengo a sottolineare che è room, non room. Room? Room, sì. Ho detto room. Ma sono in pochi chiamati doppio room, sono in due pochi. Doppio room, doppio room. Dicevo che era più runne. Scusate, è doppio rutto, cosa ti diceva? Yeah. Ma lui dice scherzando. Già lo so, scherzando. Cosa aspetta, chi era diceva? No. Dicevo che era doppio rutto. Eia. Vabbè. Comunque, ho notato tanti, diciamo, doppio runne oppure doppio rutto. E anche qualche questione mi è arrivata con la scritta doppio rubio. Allora, come te che erano esame a carburo ieri? Già. Non c'ero ieri, boh. Carburo. Carburo, già. Queste cose, Firaggio la volta che ha detto, mica c'è Bortigalli, ma c'è, erano dalla Spagna, cavolo, e lui diceva, mica c'è Bortigalli, mica c'è Bortigalli. Ma vabbè, mi ha fatto ridere, che era tutta la, io l'ho sentito nell'ascolto, chiamandolo canguro, poi alla fine gli ha detto, mica si chiama canguro, e io continuavo a chiamarlo canguro. Ah, fate tra Giuseppe, avanti Giuseppe con la buonasera. Avanti di nuovo Giuseppe con la buonasera. di Vela, buonasera. Campa, buonasera a tutti quelli che sono in frequenza sulla media 27075. 015. Siamo tutti qui. Allora, Giuseppe, che mi dici di bello? Ti dico di bello che oggi è martedì Gianni, anche oggi ce l'abbiamo buttato fuori, dai, con l'enorme fatica, prendoci dalla pascoletta, mannaggia, che non se ne può più. Meno male con le feste ce l'abbiamo, meno male le abbiamo archiviate, dai. Speriamo di riprendere il ritmo giusto adesso, in settimana, se va a fine mese, perché tra feste, festicione, sagre e malleguali qui va a finire, ci stiamo facendo più rotonde del solito. Scusate, ma c'è stato un po' tu, mi sembra sia Domenico. Provate a vedere se è Domenico. Domenico, tu sei tu? Compagnia di Gianni, Vela, Roberto e il sottoscritto, dai, vai avanti per chi vuoi. Giuseppe e Luca. Io sono sempre l'ultimo. Piccolo. Avanti, non te lo a testa della giamma. Cappa Domenico, dai. Beh, sentito anche a te, dai. Dove sei Domenico? Domenico, mi ascolti? Rispondendo, Vivio Plaghe. Non l'ascolto. È strano. A te che provo a ascoltarmi, perché non ho detto di aver ascoltato di frequenza. Domenico, mi ascolti? Adesso non lo sento più. Sta parlando. Ma è strano, io prima lo sentivo, dopo Cloaghe, sino a Coso, al distributore lo sentivo. Ma va brutto, basso. Aspetta. Sta scendendo a Sierra, Domenico. Ma nipote, ce lo facciamo passare in FM, lo sentiamo a fuoco. Bravo, va bene, va, fallo passare in FM. E quindi non più che non ti sei nemico. Non ce l'ho in FM. Ah, non ce l'ha, allora va bene. Chi lo vedrà che non ce l'ha quello del 48, vai. Oh, Domenico. L'FM ce l'hai nel 48. Anche le FM, dove stavo parlando poco fa? No, ma non stiamo parlando. positivo, dai. Ma è un peccato perché con le femmine magari schioppettava ancora meglio da fuori. Continuare a vicino a femmine. Peccato, perché in FM forse si, diciamo la sassaresa, dai, si imbatti di più. E che i furgonari di Walter vanno tutti in FM. Ed è anche una buona cosa, perché se magari avessimo preso anche un attimino l'abitudine quando siamo fuori di farci una passeggiata in FM, effettivamente magari ci troveremmo anche meglio della M, perché io so che spinge di più l'FM, Gianni. A voi. E allora mannaggia perché stiamo in FM, né? Buona abitudine, per dire in Germania usano sempre l'FM. Gianni, fatti un salto in FM che sono adesso con il blu, e sempre sul 5, voglio sentirti proprio un passaggio veloce veloce. Attenzione Gianni, ci sei? Sì, Gianni, scusi. Capito, Giuseppe. Cavolo Falchetto, e cosa hai messo il turbo tu in FM, miserabile inquilino? Cavolo quanto state arrivando forte qui in FM. Oh, ecco, ci arrivo io. Vela, mi abbassi le voci per gentilezza, che lo smetterlo pago io. Ah, fai positiva. Vela, vela. Ciò che devo mettere la calamita al contrario qui, Bene, Giuseppe. Ce la faccio a far andare fondo scala? Ci siete? Ci siete vicini? Siete tutti sul rosso qui, Giuseppe. Avanti Palchittus. E la faccio arrivare sul rosso? Cappa, anche tu sei una pacchetta più indietro di Vela e di Coso e di doppio rum, ma proprio una pacchetta, mi state arrivando tutti sul rosso, quasi a fondo scala qui in FM, cioè proprio il livello di modulazione è completamente diverso dalla M, poi anche la voce secondo me è più pulita. Gappa di Rocero. Lì come ti sto arrivando, Falchè? Sì, sul rosso. Rosso di sera. Il tempo si spera. Via. Il piccolo sono io. E chi sei? E non me l'hai riconosciuto. Antonio. Gappa. Sì, se devo essere sincero, sì, tu sei e qua mi arrivi sul 7, fai un altro passaggio, vedere un po'. 1, 2, 3, prova. Cappa, 7 spaccato. Qua sull'8. Aia, chi è questo? Falchetto, Antonio arriva sull'8. A me sul 7, pure ce l'ho più vicino io, mannaggia. Cappa. È un mistero questa modulazione, è veramente un mistero. Si conferma, che si conferma, annacce, pesciolini. Carissimo Falchetto, ma cosa dico carissimo? Carissimo! Marchi, via. Io come ti arrivo? Guarda bene, faccio il trifone. Vado al passaggio. Hola. Attacca rossa, quasi sul 30, vai. Se va bene. Caspita, se va bene. Va benissimo. E allora, perché non stiamo qua? Allora, perché non stiamo qua? Stiamo qua. Perché si sblattera sulla M. Se non c'è nessuno, scusate, cosa ne fai la M? Ah, ma però abbiamo lasciato in bianca domenica adesso, vedi? innanzitutto si fa avere dalla vita. Oh, Falchetto, non hai notato una cosa? Dimmi. Che in FM c'è anche meno QRM. Esatto. Bella come modulazione, mi piace. Basta modulare sempre in FM, ce l'abbiamo perché lo usufruirlo, diciamo, dai. K di positivo, ed è anche giusto che sia così. K. Quando sei a casa lo puoi usare, ma quando sei in movimento ti dà fastidio. Soprattutto che certi apparecchi che ti dà fastidio perché sta sempre su. E poi la modulazione, cioè no, non piace nemmeno, dai, il movimento è un'altra cosa. Per casa va bene, ma il movimento è molto più bello la M. Ma e quando ascoltiamo in radio, non siamo in FM, dico radio, non ne parlo di baracchini. Quello lì è un'altra cosa, eh. È un'altra cosa, però in prevalenza è più bella la M in certe circostanze. In certe circostanze è più bello l'FM, perché poi neanche tutti ce l'hanno, l'FM. Proprio se lo squetch, Giuseppe, quando parli sembra una telefonata, inserisci lo squetch e mi dà la risposta. Aspetta un attimino che lo devo cercare. Ah, eccolo qua, aspetta. E si quando senti a noi? Perché senti piccolino. Però no, è molto, guarda, è molto fastidioso. Dico che con lo squetch chiuso no, non ci riesci. Cioè, se sei in macchina, no, non ci riesci perché ti trovi il disturbo e non riesci a modulare, cioè ti dà fastidio, te lo sto dicendo. È per quello che ti preferisci andare in AM. A te dà fastidio, a me no. Prova Giuseppe, come va? Qui con lo squelch chiuso, assenza assoluta di segnale, e quando lo aprite arriva una telefonata, è come che stia arrivando una frustata qui in questa stazione, in questa piccola stazione radio, gaba. C'è un pochettino di saturazione, Giuseppe. Saturazione? Vediamo un pochino che cosa si può fare per evitare questo saturamento. O sbaglio già, o è la mia radio? Ma qua no, qua no. Allora, già sta, io sento saturazione, gli altri sento bene. Prova Giuseppe. Attenzione Gianni, 1, 2, 3, prova radio da parte di Giuseppe K. No, c'è chiarissimo, qua c'è chiarissimo. Falchetto, dai un controllo radio all'amico Giuseppe. No, qua c'è chiaro. K come non detto. La parola. Comunque quello è il trucco, Giuseppe, basta chiudere lo squetch, te lo apri, come apri lo squetch. Sì, la cosa bella è che proprio ti riposi le orecchie con lo squelch, ma messo giusto in posizione, in maniera che niente, si senti tutti così. E non senti il fruscio sottofondo. Cappa. Per me. Comunque è buono, dai. L'FM è tanto sempre bello parlare, perché anche le stazioni di fuori le ricevono bene. E si conferma al 100, è molto più chiara, molto più, diciamo, più prepotente, diciamo, come radio, dai. Ti stai facendo a parte con il FM in macchina. Ma che è andato in aereo? Oh Gianni! Nara! Beh, senti, mi sono spostato un po' con il Kuiper per ascoltare bene a Giuseppe. Voi bene mi ascoltate? Certo! Ma che siete andati dai, ma che scusa un attimo. Appunto, vedo il terzo domenico. Tra un po' non vedo che cosa è passato. Perché come parli di storia? Ah, ecco, quindi volevo fare quella prova anche. Gianni. Ma domenico, ma... c'è? Lo sto chiamando, ma non mi risponde. Ma stava andando a Olbia o stava tornando a Sassari? A Olbia di notte, va. Ah, e allora non sento più, dai. Passiamo a Olbia FM, dai. Via. Baba. Sai che mi reggo con lo squelch anche io. A me non mi funziona lo squelch. Come no? Lo squelch qual è? Il secondo tasto era? Non lo so, a te come. Ma Pierpaolo lo sa. Pierpaolo, squelci, qual è il secondo o il terzo tasto? Sotto il volume, sotto il volume. Ah, prova a parlare. Prova a parlare. Io. Ah, che bello, eh. Tutto la carta, sì, è una telefonata, La pomata, Sapello di genere, ma è una cittadinata veramente, eh? Anto? Prova a vedere se c'è Falchetto. Falchetto è acceso. Sei sicuro? Sì, accetto. Allora vedi, ma il VHF è male. Ah, vedo, si sente quando stacchi. Allora. Che tu mi diceva, va? Oh! Bellissimo! C'è qua, senti dalla radio, cose da gigante, Gappa, gappa, gappa, ma cosa ci intendi? Beh, è proprio bello, liscio, liscio, proprio, da un sesso di pace, è vero Giuseppe? Eh sì, si sta proprio veramente bene così. Le orecchie sono belle rilassate, belle dritte adesso, non abbassate come quando c'è quelli che sembra una cascata che ti sta arrivando addosso. Aspetta un attimo, qui ti blocco io Giuseppe. Mi sembra che sei leggermente cupo, Vela, confermi? Non lo so, a me mi risulta spostato. Cappa. Anche a me, adesso ascoltandoti bene, mi sembri spostato, Di testa? So che a me, prova a parlare. Attenzione, attenzione, Tony, non si sta facendo chiamata, tutto. Beh, io ho bruciato, e sono un ricorso. Allora sei andato, la M. Ciao, Giuseppe. Ciao, Vela, e ciao, De Ferru. Cappa di positivo Mario, spostati in FM che siamo lì, kappa. Sì, andati in FM, Mario, vai in FM. Kappa. Mario, questo pensa che non lo vorremmo cagare. Vabbè, va, e siamo tutti in FM. Spera che faccio una missione. Dio. Dio. Mario. Mario, faccia in FM che siamo. Io in FM. Attenzione, attenzione, attenzione sul 5 in FM, KK. Com'è adesso? Sempre spostato di testa Giuseppe? No, adesso va bene. Giuseppe, va bene. No, no, no, compressione al massimo, K. Negativo. Senti Giuseppe, Mario. Sto parlando in AM, Mario. Io la faccio la prima AM, se no, no, no, no, mi sono quasi in casa. Cucù. Cucù. Bello, siamo qua. Ascoltate. Mario, Giuseppe, ti ascolta forte e chiaro, cappa. Sono tutti pronti. E una forma che ci hanno ascoltato in forma per fare la scuola. Ah, papà! sentito anche dentro Sassari e non era male male. Cosa hanno montato? Se nassù. Quale? Ma non è nessuno, è sempre sul terrazzo. Però per distaccarla dalla parete gli hanno messo la tappa della parabola, dai, con una bella piastra agganciata e sopra c'è l'antenna della macchina. Ma è sul tetto però. Risulta sempre sul tetto. No, sempre sul terrazzo. Gappa gappa. Anzi dai. Sempre. Io ci sono e ci sono alla grande, avanti. Molte grazie Vela. Lei è sempre così umano e così gentile che guardi, non posso far altro che riprendermela. Cappa di positivo. Ma ci siamo tutti scesi di nuovo qui in AM, sì? Ma che? Siamo tutti qui. Cappa. Doppio room? Sì, ci sono. Vela c'è e Bombo l'ho sentito poco fa, credo che non manchi nessuno. Muy bene. Comunque, riprendendo il discorso di poco fa, la M è una bella schiaffettata, ragazzi. Veramente una bella modulazione. FM? Sì, scusa, FM. Dove? Si possono fare delle questioni perché a livello di salotto proprio perché è silenzioso, se tu metti lo squelch ti fai delle modulate allucinanti. Cappa di positivo. L'avevamo già provato tempo fa questo benedetto FM e sì, va bene, piace, a orecchio piace abbastanza. Non riesco a capire questo AM se poi si riesce a modulare con una certa cosa, con una certa come posso definire? Non mi viene il termine adesso, dai. E cioè con una certa limitazione, mi avete capito? Tutto lì è Giuseppe, non perché poi non sia buono, ancora. Giacomo e tutto quanto, Niccolo, Niccolo, Niccolo, aspetta un attimino che qui mi sono mosso appena appena e sta già protestando il ragazzo qui, ho sentito un leggero innesco, è stata impressione mia. Comunque, diciamo che se valutiamo la situazione è migliore in effetti. Sempre con lo scotch inserito sembra una telefonata, cosa che nella M non succede. Vabbè, comunque, anche in AM va bene, molto meglio di altre frequenze. Beh, per esempio, ho già, io ce l'ho tutto abbassato e ho telefonato anche in AM. Ma diciamo una cosa che in AM tu lo abbassi i segnali deboli deboli, non li segui, sì. Mentre invece in FM, essendo una frequenza dove la doppia segnale, senti anche quelli piccoli capelli. Gappa gappa. Un attimo di bianco, vengo subito. Gappa. Gappa gappa. Avanti, pini. Gappa gappa. Infatti, altri tipi di frequenze sono le FM. E la scorsa passata tiri fuori anche i più piccoli. Infatti, perché essendo più potente come frequenza, capito? Non so da che cosa sia determinato, ma il segnale è più forte, è appurato questo. Per via anche delle onde, capito? Sono sistemate diversamente le onde. Se tu guardi la tracciabilità delle onde, avvengono diverso della M. Elettrocardiogramma in AM sono sì, esatto, addirittura invece USB sono addirittura completamente diverse, totalmente proprio, sia dall'AM che dall'FM, sono altro tipo, se ho i grafici un giorno te li faccio vedere come avvengono le onde. Sono cose belle, No problem. Vediamo. Chi l'ho rimasto? Falchetto e poi. Ma Roberto è andato a sera. Non lo so, ho detto che facevo un attimo in bianco, poi è sparito, ma mi sa che c'è partita stanotte, forse sarà andata quella che è partita. Non so, c'è anche Mario, non so se c'è ancora, ha detto che dovevo andare via da lì avanti, Mario se ci sei. Mario non risponde, Giuseppe Vincenzo è tornato. Eccolo, mi hai preso proprio al volo, entrando qui nella porta, eccomi qua. Ti ho beccato lo sorcio in bocca? No, negativo, è Veronica che fa chiamata ogni tanto. Ma sento che qualcosa prendevano le tue labbra. No, negativo. Questa volta qua ho mangiato proprio un boccone poco fa, anche perché devo essere sincero, non è che ne ho tanta voglia di cenare. Magari più tardi mi mangio una frutta, quello sì, quello non me lo posso negare. Però proprio di cenare, dopo la pizza che mi sono mangiato poco fa, non ne ho voglia. Cappa, oggi sei contento che non si poteva viaggiare fino alle tue, vero? Cappa di positivo, me l'avete scoperto tutti, né? Io lo so, sono aggiornato, non si può viaggiare fino alle tue. E chi esce poi alle tue? Poi? Guarda, io ho fatto un paio di consegne stamattina giù in zona industriale, una dietro la Nuova Sardegna e una a fianco a Zunino Auto. E pio trotterellando di qua e di là, e cosa, grazie a Dio, stamattina mi si è fatto mezzogiorno e 20 e sono rientrato in stabilimento, buttato dentro la barra tra una cosa e l'altra, era la 9:15, lavate le mani e via a casa, e anche oggi è passata. Ah, l'hai usata lo stesso? K, in città si può circolare? Circolare. Ah, in città è giusto, sì, è vero, si può circolare fuori. Sulle strade statali non si può andare, giusto? K, divieto assoluto sulla 131. Anche se per qualche cliente, qualche scorciatoia, passando attraverso qualche stradina, qualche cosa lì a Predanieta e ci si può sempre arrivare, perché ad esempio un cliente che abbiamo noi lì sulla a Predanieta dietro a Nova Sardegna, se passi sulla 131 prendendo dove c'è Bricomen, lì ti arrestano, quindi niente, obbligo di passare lì a fianco a Cittamercato, proprio POP, o lì e ti consentono di lavorare, almeno qui in città, Birba. Capo, non sapevo. Cani, voi miei così non li avete, no? Abbiamo un centro. E quello non poteva circolare? No. Quindi toccano tutto a te oggi? Ma quello è sempre fermo, tocca sempre a me. Quello lì è chiuso al campanone, non è stato chiuso. Poi quando vai a prendere la batteria e scarica, la scusa che si è che la batteria scarica, non le mettono in moto, capito? Ma quali di quelli che quando li metti in moto fanno tutto quel fumo se quando lo scaldano? E infatti, sembra che debbano prendere l'aereo quando devono prendere quel cane. Quello è peggio di essere ad Auschwitz con quel camion lì. Freddo? No, nube tossica, camere a gas. Lo so. Fate un bel nome. Il centro, come si chiama? Va. Non me lo ricordo, vabbè, quello bianco, quello che con la pedana idraulica ci abbiamo. Posso? Vai. Io vi saluto, vai, che domani si lavora e mi devo alzare anche prestito, vai. Vi saluto a te, Gianni, Vela, Antonio, Giuseppe e niente, io buon ventino da parte mia, vai. Ciao Falcone, buonanotte. Buon trabacco per domani. Avanti Giuseppe. Ciao Vacchè, ci sentiamo domani, ci risentiamo tutti alle migliori, riprendi vela. Ciao Falcone, buon lavoro per domani, buon QRT, dai, ciao. Ciao. Ma me buon QRT anche da parte mia. E te lo disegni, no? E te lo disegni, no? E gli sto dicendo, dimmi Ninni, no, e ti voglia di no. E questo furgone qui, Gianni, quanti anni ha? Tutto tacque. Ho assegnato qualcuno, mi sa che c'è la partita stasera. Mi vorrei sbagliare io, ma mi sa che c'è partita nell'aria. Chissà anche a me, non lo so, come poi aver sentito la tua genere, no, ma Gianni partita non mi guarda. Gianni, la partita stai guardando. No, negativo, non mi piacciono le partite a me. Non sono tifoso di calcio. È che c'è un casino, che se non lo faccio sentire. Lo senti? Lo sentiamo. Marco che frega la cosa a Manuela. E lì cerca di prendere, lasci la scodessa, sta a letto, l'effetto di Curigo. Quello sta facendo allora? Sempre, tutte le sere così sono. Cappa, meglio che siano Arzilli. Ragazzi, volevo dire Giuseppe, è quel camion che ci ha fatto lì, OM, quanti anni ha? non ce l'abbiamo più quello, quello sono venuti a prenderselo, l'abbiamo venduto. Ah, non ce l'avete più. No, no, quello, quello è sparito subito, perché camion così non ne fanno più, anche se era vecchio, guarda, quello è un trattore come, come macchina. Quello gli devi mettere solo nafta e vai, vai, vai, ti fa il giro del mondo con quella macchina lì. Ma diciamo che c'è il motore Fiat. Officine meccaniche, OM, OM, nelle macchine che si vedono quelle, quelle vecchiotte, sono officine meccaniche. E lo faccio, sì, diciamo che dice, la Fiat è sotto vendite spoglie, dai, però sempre del gruppo Fiat erano quelle, quelle, quelle storie lì. D'accordo, d'accordo. Io ho avuto l'OM40, Giuseppe. E anche quello lì veniva fatto tutto qui in Italia, su a Torino, officine meccaniche. 10 pedali, ci caricavo 4 interi, tutte le altre smantellate e viaggiava, si era stintino. Lo so, però io ripeto, ripeto nel dire una cosa, che le macchine che facevano prima non le... Secondo me non le faranno mai più, sia come robustezza, come telaio, come tutto. Io mi metto una dei gas esecutivo al 160, si è disintegrato la macchina. Se si tira uno adesso a questi nuovi camion che stanno uscendo, che sono tutti in plastica, si fa più danno al camion che alla macchina. Sì, sì, è vero, è vero. Tempi diversi, poi quello lì c'aveva le gemellari, quando caricava il moto toccava uno con l'altro, la volta mi hanno scaldato tutto, poi si è scoppiate le gomme. Quello è molto importante, controllarle, le gemellate, perché quando toccano è come che stai sfregando tu due teste di due fiammiferi. E vabbè, quando c'è il carico toccano, quando sono troppo cariche come le gomme si abbassano, tocca. Senza parlare che avevano fatto il parafango col bullone, la parte lunga, la testa l'avevano messa sopra, la parte lunga dalla parte interna del parafango, come tu caricavi un metto, toccava sempre quella vite. Allora ho preso e li ho girati. E così andava bene, non toccava più. Un rimedio si trova sempre. Cava, cava. Ma quel camion ne ha fatto di bella strada, poi c'aveva la batteria dentro la cabina, Giuseppe. L'ho portato in officina per fare il tagliato, deve essere, mi hanno chiuso male, perché c'era il motore anche dentro. Mi hanno chiuso male, il coperchio del motore l'ha collegato col sinistro. Cosa è successo? Come hanno chiuso male il coperchio, si è mosso e Silvia ha toccato la batteria, si è scoppiata la batteria dentro il camion. Figurati. Mi ho conosciuto anch'io di camion e di furgoni che avevano la batteria in cabina. Però guarda, non c'è cosa peggiore che quando stai camminando e quando l'alternatore ti carica la batteria, senti proprio, se non è chiuso bene il coperchio, senti proprio le esalazioni dell'acido che c'è dentro la batteria. Io una volta con un furgone così mi avevo fatto Sassari, Cagliari e viceversa. Cazzo, se lo sono morto ogni giorno, guai. Anche io con l'M40 me l'ho fatto, sono andato alla costa, dai, al Bivio Santa Vendracci. Ciao Gianni. Poi Capri. Avanti. Capa che ti senti. Buonasera, buonasera, con che apparecchio stai uscendo? Non subito. Ma si è attaccata? Così, te lo sto chiedendo, mi sembri più chiaro, più pomposo. Scusa, te che mi avete fatto spendere i soldi, non lo so, ti devo controllare, ho aggiustato roba, vediamo un po' cosa sta succedendo qui. E presa, antenna, presa. Cosa hai preso? fatto un buon acquisto. Quanto? 145 girati in asti, da 147 non si voleva muovere. Tirato non dirà, tirato, cioè qua sono aumentato qualcuno, ho riparato un Alfa Lima, mi ho riparato. 145 già, 2 euro di sconto mi ha fatto. Di abbassaggio, adesso si sente, ma cosa ha fatto? Si è passato da 3 a 7. Ho riparato un Alfa Lima già, mi ho comprato dei pezzi stasera e mi ho riparato un Alfa Lima piccolo, piccolo, piccolo. E lo stai usando il volante nello stesso modo che lo abbassi? Ma me ne ho comprato già una scatola di pezzi, ok, non niente, quindi già funziona, ok. Poi c'è il valvolo, i 4 valvolari da riparare, già me li faccio con calma. Chi c'è in frequenza? Ci siamo io, Paolo, Antonio, Giuseppe, Falchetto, Mario, insomma, un po' tutti là, tutti là. Ok, ringrazio a Giuseppe che lui gode quando arrivo così. Ciao Giuseppe, ciao, ciao a tutti in generale, poi vi già vi ripasso. Cappa di positivo, ciao Gianni Capri 2, è sempre un piacere sentirti, cordialità e una stretta di mano da parte mia, mannaggia, entra più spesso come l'altro giorno, che cioè il giorno di Pasquetta che ci siamo sentiti in BM, Gianni, e come detto è sempre un piacere sentirti, dai. E ti informo che il Falchetto ha chiuso le trasmissioni QRT da parte sua, perché domani ti deve trabaccare di buon'ora, e Mario lo stesso, e quindi siamo io, tu, Gianni Doppio Room, Bongolo e Vela. E Vela che ti passo adesso, Gianni, e Gianni e Capri 2. Avanti Vela per Gianni. Capo, buonasera Gianni Capri 2, dai. Ben ascoltato e ben sentito. Buonasera. Gianni. Ciao Pierpaolo, buonasera, ben sentito anche a te. Stasera mi hanno spogliato il Capri 2. Mi piangendo sta, aspetta, avanti Gianni. A me? Ehi, riprendi, ti hanno spogliato, e chi è che ti ha spogliato? Qualche bella donna? Ehi, di quei due che sono da grassi, non io lo riscontro, Pierpa, mi hanno fatto. Capisci, Capri 2. Caspita, allora c'è andato anche a me. Allora, ti tu, sono disperato, cosa c'è? Sembra Capri 2, Santiago 5. Ciao, Gianni Capri 2. Ho riparato un Alfa Lima stasera, ho comprato il pezzo e l'ho messo a posto. Ok, e niente, Pierpa, lì sono 145 euro, l'ho pagato, l'ho fatto da 5, c'era Natalino con me, niente, Simone. Cappa Gianni Capri 2, e adesso ti devi cercare gli antennisti. E ok, già la piazza abbasso il palo lo devo portare, però stasera l'ho visto, siccome è chiuso non me lo devo prendere, non me lo devo portare, mi sembra più grosso, adesso comunque mettiamo il palo e poi antennisti cercasi. Antennisti cercasi. Cosa dite? Comunque ci sta arrivando a porta. Ma quanti fratelli c'ha quel lineare, Capri? Non lo so, uno ha fatto vino e l'ha alimentato, sarà un alimentatore da 10 ampere, sarà un 80-90 watt, e poi mi rifarò gli altri a poco a poco. Ciao Mario, la mappa fa 5, ti dovevi prendere, la mappa fa 5. È una grazia, una squadra morti, è un ladrone. Capito? Io perché ho incontrato non l'ho trovata e ho ripiegato sulla turbo, però non mi piace niente. Comunque grazie a un gran ladrone, perché io la turbo l'ho pagata 111 euro da Continente, compreso la spedizione. Io sono denaturato 60 euro vanno e vanno. Però Natalino già li ha sparati un po' lì da Grassi, e la detto in faccia in poche parole che sono dei ladri. Pagata. Allora, contento per te, dai, hai fatto un ultimo acquisto, perché la 5 è un'ultima antenna. Guardate la carica, già. Sì, da carino contento l'ha provata per far vedere che lui che prodotto è a posto. Comunque poi siamo andati da Natalino con la 50, ha visto la Mantova Turbo, si è spaventata la mia 50 e durante la così è quella che ho comprato, ho detto presa poco. Ma perché Natalino non ce l'ha una? No, Natalino c'ha la Turbo, c'aveva la Turbo piazzata, ma ha comprato la Mantova 5. La Turbo nella scesa e ha messo la Mantova 5 sopra 12 metri di palo. Appa, e si conferma in pieno quello che sta dicendo Mario. Cappa Giuseppe lo sa. Cava cava, anche se non lo so, è poco da lungo quel palo, Dio mio caro. Già l'ho detto io, consiglio di fare così. Vedere l'unico modo. Ma in campagna viene bene, male, male. Azzaro a casa, un palo d'uscita, dagli di là. Casino, io lo posso salire anche qui a casa. Solamente che cosa me ne faccio di 12 metri di palo? Non me ne faccio nulla. È vero. E poi, a parte quello lì, è sempre una cosa, sopra un palazzo, mettere due tubi così è pericoloso. Anche se devo essere giusto di qualche cosa, che andare giù su, Giuseppe l'hanno rifatto. Ui. Invece lui è in campagna, seppure dovesse andare giù, cade sopra l'albero e non gli fa manco niente. Beh, quello sì. In campagna puoi fare tante cose, non è come quando sei in un palazzo e devi adeguarti. Lui adesso ha proprio fatto ciò che desiderava, perché lo diceva sempre, se io esco dalla strada, vi posso dire cosa voglio. Piano, perché lui era un bel chiuso, era sotto il manto stradale. Allora stanotte vado e gliene taglio un metro, vela, ci vieni con la fiamma nuova del segreto. E quelli laterali dove li avete messi i tiranti? Diciamo che devi spiegarlo così, non viene bene, bisogna andare lì da lui e vedere dove abbiamo attaccato i tiranti. Gli alberi. Che fai, Bruno, di pure l'antenna. Cappa, senza contare la palma che ne stavo cadendo, vero Antonio? Se per caso uno dei fratelli decide di tagliare l'albero, guai. Perché puoi mettere tutto in una maniera particolare. Se un albero cede, si piega l'antenna. Strumento e fuscia. Giuseppe, avanti vela. Allora, adesso io voglio una spiegazione da te. Dica, sono tutto orecchie pelose. Allora, questa antenna che avete montato, ne avete dovuto scendere l'altra. C'era un po' di vento. Mi risulta che è stato spostato un barattolo di vernice mare. Poi dice che tirava un altro venticello dalle parti basse. Insomma, ora volete avete piazzato in antenna. L'altro venticello lo devi chiedere alle mutande di tuo figlio, che come tirava, che mi ha ammazzato in chi? Penso che ci deve dire a 2008, vero? Cappa, fortuna che ho preso la via del tetto, sempre più in alto. E qua. Penso che la scorreggia tosse a due. Non sono quello. Mi è scappato il cacciavite da sopra e la chiave. A giornale non lo faccio biondo, se no non potrebbe cuore. Quello è il portato. Però devo mettere un pezzo di cosa per no. Perché mi è scappata la mano. Ma non era niente, cazzo, che tu su Giuseppe, che io l'ho visto bianco con gli occhi celestiche. Cappa, un angioletto, un angioletto, tu figurati che tu, data lì, era sulla scala e scaricava, cazzo gli ha ammassata di spinterogelo a lì, infatti da poi quando le so farà dirigiavi ha giudito, Dio mio caro, lo so comoglio, non una volta no come ha detto Antonio, tre volte le chiavi, biondo e rosso. Grazie. Capri 2, adesso si impressiona e dice mamma mia, io devo chiamare questi qua a montare l'antenna. Farucci, un bellissimo lavoro, dritta, dritta, dritta, dritta. Domani stesso compro 4 di quei cosi che fanno i comini, i fumaioli per fare, e nel mostro uno ogni angolo, li pieno di cemento, li metto il coso per attaccarci i tiranti lì. Ma se mi viene bene, fai così. E ok, sono di una chiesa, penso che parla la grande l'osso, perché vuole ancorata, è un mostro per fare. Ma cosa, se ci metti un palo robusto, un paio di tassini alla mela, ci leghi le corde, non va da nessuna parte, sembra così, ma non è che sia tutto questo, se ci sono tre tiranti va più che bene. Quando va questo forte per esempio i giornali, di domani ci sarà a muro sottate antenne in testa ai passanti, arrestato il proprietario della casa. Ma fai Gianni, cosa ha arrestato Iaia? Cioè, bisogna vedere poi quanti metri ne metti di questo palo. Secondo quanti metri ne metti manco tiranti ci vogliono. Gianni, sta lì. Ciao Natali, ho riparato un indianino e come ti arrivo? Infatti, mi pare strano che arrivi così bene. Sono Barretto Mobile io, che sto tornando da un'escursione con la 25. Caspettina, sono quasi arrivato a casa. Andà bene Meda, Natali, andà bene Meda. Sei stato troppo ospitale dentro la 50. Comunque Natali, tutti quelli che ho conosciuto fino adesso, siete veramente delle persone in gamba, ho conosciuto gente con la S negli anni passati, nei primi anni, voi siete gente che merita ripiazzare quelle, che piatti quell'antenna. Ok, riprendi Gianni Lucchino. Cappa già, ciao Nattalino, questo è anche a te. Dovete solo ripiazzarla, apparente della casa, dove stavamo guardando l'altro giorno. Dove c'è la parabolica lì, quella la leggo già, e quella fa parete e ci cade il palo anche un po' dentro la soffitta, e lì ci metterò tre stufe come vicino da Natalino, però ancora tre belle, domani stesso le compro, le facciamo bene asciugare, e vedi che regge. Tra le sta facendo aver anche grassi, grassi. Oh, carità, già, lascia vendere. Perché? Ok, quelle che conta le fa pagare quelle. No, se no non sai cosa ci metti. Quelli sono di per ancora riporre lì i cibi, quelli lì non sai quanto vanno bene. Sì, tu non ti preoccupare, comunque grazie, caro cioè. È caro, perché sono tutti e due cari. Prima uno ci aveva negoziato il conce, ha fallito, anche ti faceva pagare, io ne ho parecchio, ti faceva pagare anche il trasporto, e lui pagava il trasporto per ogni pacco che c'erano 5-6 apparecchi, 10, e lui te lo faceva pagare su ogni apparecchio, capito? Ma lo sai perché sono anche la grassa già, perché correvi il rischio poi di non beccarla più, te che non, con le comunicazioni non le ha, Natalino l'ha comprata, non so dove, e per evitare di piattare la turbo ho speso 20 euro in più, ma si vedano. Gianni Capri 2. Eccolo qui. Giuseppe ti fa chiamata e ti dà perfettamente ragione, anche perché ricorda una cosa, poi non è, io sono l'ultimo qui a poter parlare e dare un consiglio, però mi sento di dirti che non sono i 20 euro in più che hai speso, però hai fatto una cosa saggia, perché piazzare una buona antenna, anche se l'hai pagata quello che l'hai pagata, attenzione, la metti su e hai risolto tutti i problemi Gianni, tanto stare lì ad aspettare e fare la alla cosa, ordini su internet, e sono queste benedette antenne, a quanto ho sentito io, che stanno andando fuori produzione, ma chi non se ne frega, ce l'hai qui, te la sei caricata in macchina Gianni, e l'antenna ce l'hai a casa adesso. Perché Natalino ha pagato anche, mi sembra, 5 euro di assicurazione. Per forza. L'ha pagata Natalino 5 euro d'assicurazione. Col palo che ha messo, le ha buttato già giù 3 elicotteri. E per forza, mica può pagare di tasca tutta la cosa che li butta giù. No, per arrivare la vittoria. Avevo capito. Importante che abbia una buona rese e la tagliamo quelli quello rosso, la tagliamo bene in modo che sia alzata e che non la tocchi più. K di positivo, oh Capri 2, da dirti una cosa, proprio te la dico senza nessun problema. Io la 1, la mantova 1 qui sul tetto e l'ho presa da Grazi, cioè non sono stato lì a girarci molto in tondo. L'ho pagata magari 10 euro in più di quello che poteva dare internet, però sono andato, l'ho pagata, l'ho presa e l'ho piazzata il giorno stesso. Infatti, giunge, ho giusto anche per accelerare più quei tempi, no? Ma rimaniamo, così, rimaniamo. Ricordo anche il problema con l'Alfalino, me lo sono riparato uno, come faccio gli altri, quello che ho più freddo, perché non vedo neanche bene quello che porta luce qui. Ok, riprendi Natalino, dove ti trovi? Adesso mi trovo a casa, penso che la situazione sia cambiata. Cosa ne dici tu, Gianni? Andà bene mera, anche io sono cambiato adesso, Lino. Sì, dal giorno alla notte, già. E ok, mi sono messo, ho fatto quello che dovevo fare, poi c'è l'altro valvolare che mi devo cambiare gli elettrolitrici, qualche dio, quello, piano piano li metto sotto tutti. Ok, facciamo girare Antonio Popolo, riprendi se mi ascolti. Sappa che ti ascolto Capri 2, non so come mi ascolti tu lì a Muros, ma io qua stasera ti ascolto finalmente. Capra, Capri 2 hai? Adesso bisogna aspettare a quando vuoi tu, una domenica eccetera eccetera, si scende e si monta questa benedetta antenna. Almeno la resa con quello che hai lì dovrebbe essere alla grande, qui il minimo arriverà ai 7, 7 no 8, è una cosa del genere. Cazzo, non vedi, ci sta arrivando anche tu qua, lì, ma quando monterà quella là, con quella potenza lì, sarà tutto positivo qua. Ehi Albino, ma tu stai arrivando alle 9:10 qua, capito? Non ci sei mai arrivato così qua, che è una gara. E io non sto ricordando che arrivo. Sì, più di 9:30. E Giuseppe quanto ti arriva? Carissimo! Tutti i controlli, buona là, 9:30, arrivati Forte Gianni. Il Tommaso sono io. La mazza. Come la mazza, perché? Sei a Ciro Salito, Murugia. Sono piccolo piccolo io. Dai, cazzo, rimani impassibile per te, io quando fai così ti temo io a te. Sempre impassibile sono io, Natalino, non ti preoccupare. Carissimo Pierpaolo! A me che arrivo anche a muro su, ce lo vedi? E te credo! Ma perché ho una curiosità così? Però quanto ti arriva lui? Cazzo! Quasi l'usignale di Giuseppe, mi manca poco! E quello che gli ha detto così, capito? Aspetta, Capri 2, quanto ti arriva Natalino? Natalino arriva a 9:10 arriva, E io quanto ti arrivo? Non ti arrivi a 9:10 già tu. Se mi dava 9:20 prima, mai dato però, mai dato, oscilla che sta andando su 9.10 già, però non arriva, se ho accettato sempre questo segnale. A te. Allora, guarda un po' quanto ti arriva adesso, Gianni. Adesso ti faccio un altro passaggio, come da poco fa. Ormai da Como. Adesso ha diminuito la salì di mezzo Santiago. Siamo troppo vicini, non è che si veda molto. E infatti, lì in Bari, poi quando sono rientrato, sono passato lì dalla Brezzella, siamo vicinissimi. Infatti, si vede più in lontananza la situazione, là. Ok, già va bene. E io già mi cambio due, quanti riesco a crepparne così, cava cava. Fai da bravo. Radio Giuseppe, comunque Gianni, come segnale più forte, Natalino più forte, tu sei come Pier... Segrebelli in corso, stacca. Sì, non si è arrivato, sta arrivando quanto è Pierpaolo, quanto? Sì, siamo Pierpaolo sulla soglia di 9. E siamo arrivati a tutte e due 9. E le radio anche precise, quella di Giuseppe è quella amplificata anche. Mamma mia, Capri, io sono il più piccolino. Ma che hai diminuito, sei forte, ma però con l'altra antenna hai 4 giri di Schlitter. Lo so, questa qui non vale una mazza, è vero, l'ho presa ma me ne sono pentita alla grande, goppa. Andiamo da Grassi, buttiamo via quello e mettiamo subito l'altra, a banco i soldi pure. Mario, Matteia, mica una vita come quella che c'hai tu, che ce l'ho in terra, è la vita Gianni, com'è? Lui com'è dietro? È con tutto che l'avevo verniciata, mi è tutta rugginosa sotto, Lo so. Cosa ti stavo dicendo, Mario? Ma tu il cavo, come non l'hai cambiato? Secondo me il cavo è pieno, che volevamo cambiarti, no? Mi ha messo quelli vecchi, magari non sono più, diciamo, al 100%, dai, funzionando. Vabbè, ma se c'è la... prima c'è la lavanto, va. E uscivo bene e ascoltavo bene. Adesso ho messo questa qui, il cavo non c'entra niente, io sono salito perché si è rovesciata l'antenna, così che se usciva bene prima, perché devo cambiare il cavo se il cavo non c'ha nulla? Io ho cambiato l'antenna credendo che andava meglio, cioè io su di da buttare non ne ho, Se ci voleva l'antenna ho pigliato e ho cambiato l'antenna, tutto lì. Solo che l'antenna che ho preso, non sapendolo, tutti dicevano, lui c'è questo di guadagno, c'è quell'altro, bum bum ba. E poi, alla fine, l'ho piazzata su e l'antenna fa schifo. Ma non schifo, no, di più, e non dire una parolaccia. No, guarda che stai sbagliando, Mario, Sarà sorda da vicino per Sassari, questi paesini qua, però in propagazione arrivi più forte tu e senti più bene pure, perché c'ha il lobo di radiazione più alto, la mandava tu, infatti io mi accorgevo che i DX arrivavo oggi e poi si arrivi a Niedi, e da vicino solo che era sorda. Io ho visto che molta gente l'accompagna sino a lì, altrimenti pisce e poi mi sparisce, mentre che prima appena uscite dalle gallerie li sentivo subito, anche se erano coperti dalla montagna e ci parlavo, e invece adesso non più. La stessa cosa faceva con me, turbo, uguale, uguale a quella che hai tu. Mi mangia la matrice di fitto, infatti di mai sono correttina in di mare, me lo ricordo, io dicevo sempre che ricevevo basso, perché da vicino non dava una cicca, cioè l'obo di radiazione più alto della Mantova 5. Invece con la Mantova 5 me ne sono accorto che i segnali sono alzati adesso. In ricezione questa qui è tutta un'altra cosa. Infatti io me ne sono pentito solo per quello lì, perché quella là in ricezione li sentivo piccoline e piccoline, ma li sentivo anche la Morore, cioè Morore non è alla girata dall'angolo, è come Patai, la Budgio, quelle zone lì, Orsini, che non tutti li ascoltavano, però io li ascoltavo, mentre che adesso mi sto accorgendo che molti punti non ascolto più niente, tutto lì. E anche a me mi faceva così con l'antenna, sì, è vero. Con Patata ci parlavo, con Bonorba, quando scendeva da Bonorba, Vigi Vulcano, però in certi punti non sentivo un cavolo. È stato di positivo, io se per quello l'altro giorno con Vulcano stavo parlando Radio Baccano, ed era a Suni, provincia di Oristano, e niente, eppure lo sentivo bene, vabbè che quello là stava pompando, però lo sentivo bene e mi ascoltava bene, però non è con tutti che riesco a sentire. Sono lisci, non li senti se non c'è segnale, perché è un po' sorda come antenna da vicino, già è vero quello, Mario, te ne do atto, perché faceva anche a me così. Se ho parlato con Pierpaolo, il figlio di Vulcano, e ero chiuso lì, no, dove stava andando lui, e Cattogi ci ha parlato stamattina, ma di brutto, però io ti ho sentito, lui stava salendo a Angelo. Ecco, quella parte io ce l'avevo chiusa, però avevo di trancarla, Brubi. Gappa gappa, no, ma poi la Mantova 5, guarda, per me è una signora antenna, è che non la stanno facendo più, non ho capito il perché, perché era un'ultima antenna, e poi durava nel tempo, perché la mia c'era 19 anni, sopra non c'era un giorno, no. Pazienza. Ehi, ma allora non hai compreso che vogliono lanciare la Turbo, perché Turbo ne hanno venduto poco. Adesso vogliono lanciare la Turbo e quindi mettono fuori produzione sia la 1 che la 5. In modo che da questi due anni si la devi rampare. La mia mi era più verniciata un fondello. Era ruginoso, perché non l'ho accesa io. Ed era arrugginito. Non l'ho accesa io l'antenna, ce l'ho in terra, la devo smontare, perché la devo dare a una persona. Eppure, guarda, è arrugginito. E con tutto che l'avevo verniciato io. La parte dove attacca la mia. Sì, mi l'ha visto Gianni Capri 2. Quella è la prima cosa che si arrugginisce. Perché le buone condizioni, Oddio sì. So che il pezzo di sotto è così, infatti quella persona se lo dovrà mettere a posto lui. Se lo mette a posto e via. Ecco, appagata. No, io adesso devo vedere se riesco a recuperare lo stile della mia, della 5, vedrai che se mi sbatto la 5 sopra e sarà di Gianluci. Infatti, se riesci a buscare il pezzo di sotto. Ce l'ho già il pezzo di sotto. E allora via, smontala e cazzo, se ci sbatti la 5 con la linea la butti giù, il cazzo, manchi, cioè nei 10 ti dà un sacco di soddisfazione la Turbo, ma da vicino non c'è Cristo. Da vicino, guarda che parlare con la Basanta, con Moro, che non sei vicino, no? Io parlavo con la Basanta, parlavo perché io non ascoltavo a loro, e con lui lo chiede a Vulcano perché me l'ha detto lui, dice c'è una tramata che sentivamo. Ehi, ma con quanti sbatti, ma? Con questo del baracchino. Senza lineare, senza lineare. Senza niente. E allora, io ce l'ho a 5, ieri l'ho detto e fatto a capire, lo prendi da 1 o prendi da 5, perché sono le mie, la turma non è invidiata. Ma io te l'avrei sconsigliata, se l'avessi chiesto a me te l'avrei sconsigliata, perché anche a me non mi dava, poi non l'avevo presa anche per il radiale, perché ci sono molte cornacchie vicino anche a Santo di Spetta, invece quelli di Resina, avanti KP2. Ok, già è infatti, avevo notato la differenza io con la turbo che erano in alluminio, infatti Natalino li avevo anche ancorati con quella del titolo di presidenza. Con la 50 stavo parlando che l'antenna si è venuta bene almeno una decina d'anni, questo rimane bella. Ma cosa? Mi pare ce l'hai 19 anni, io ce l'ho già 7 anni. E quindi già a 70 anni la tua ancora là. Oh Gianni, un altro vulcanizzante, un altro normale devi buscarti, Sì, già lo busco, vado alla ferramenta domani. Perché ti serve anche quello, per fare le giunture dei tubi. Capito? Per non entrare acqua, così la puoi smontare quando vuoi e tutto quanto. Poi con lo spray al silicone già ce l'ho io per le erbici. Sì, ma spray non ti dice, non so se al silicone, comunque, una foto. Okay. Oh, spegni quell'affare Capri, che se no lo bruci. C'è qualche rientro. Antonio. Spegni, non capisco. capito che sta facendo rumoraccio, spegnilo quell'affare che lo faccio di nuovo. Capo, spegnilo quell'affare, capo di tu. Dai, quando ci sistema tutto, l'accendi e si fa la grande. Capo. Cosa sarà questo, questa cosa qua? Dite che non anda, che sta turbo. Per me è un'antenna come gli altri, cioè, logicamente magari darà qualche prestazione in meno, ma cioè, siamo lì, dai. Non è che si può pretendere di ascoltare molto molto fuori neanche, perché ricordo che è sempre una banda cittadina, ricordo sempre quello, quindi... Ma non c'entra un cavolo di quello che stai dicendo tu, quanto tu. Va bene, solo quando c'è la propagazione la mando a turbo, va meglio delle altre. Ma perché? Perché c'ha l'angolo di radiazione più alto, ecco perché. Invece la, come si chiama, la 5 va bene in tutta la Sardegna, senza propagazione. Capito? Quando c'è la propagazione però è migliore la turbo, perché io già lo so. Per la propagazione va meglio. Capito? Io l'ho provato in tutti e due i modi, e Davidino è soglia. Va bene, dai. Io vi saluto, saluto anche gli amici che sono andati via, perché sono veramente stanco oggi, oggi ho avuto una giornata un po' così. Ci sentiamo, dai, saluto anche quelli che ascoltano, alle prossime, Alfa 1 QRT K. Ciao Natale, ci sentiamo. Avanti, capi 2, ma domenica ce la facciamo o mettiamo la vostra antenna? Ciao Natale, ci sentiamo. Ho detto capi 2, ce la facciamo domenica a piantarla questa antenna. Sentite da fare, ce la facciamo. No, sta facendo un rumore, probabilmente è perché hai sempre quel problema che ti fa rientrare. Metto la corda da ora. Adesso va bene già. Ehi, ma non fare passaggi lunghi, perché se no ti da rientrare. Cosa, è una ciclotabile, è quello che conta, capito? Vabbè, capito. Allora domenica ci attrezziamo. Se mi dici che lo facciamo, io lo metto in altri impegni. Se no, magari saliamo io per Paolo, Antonio, Nazzarino. Va già, va già. Stavo dicendo, capito, 41 deve essere l'ingresso della mano. Thank you. apparecchio 75. la sede, c'ho le mie personali, quelle di doppio rullo. Thank you. adesso tecnicamente io gli ho messi due tiranti, gli ho messo due, invece che uno solo due, e rende più forte. Basso in testa. Quello non era tubo, era la normale, era acidale. Abbiamo avuto la tubo per... Ah, quella che ci aveva detto da prima. Ma così grande era la mandorla. E allora? Scale già ne hai, si scale lui, scale. Scala, io salgo nella soffitta già, uno si permette una piazza e deve dimostrare. L'antenna, diciamo, mi ho fatto dei calcoli, solo che con la piazzetta di Alessia lì, dell'angolo scale, dopo la lì, andiamo con le sua piazza, poi la saliamo sopra, con una trombone e iniziamo le coreografie. Però di qui come si fa? Si fa. Si mettono due, un altro, altre due sopra. Si legano i tiranti all'antenna prima di salire, poi dal tirante stesso tiri da sopra e gli altri da giù spingono il palo, passi in alzato. Che sia difficile. È più facile di questo qui. Abbiamo ripiazzato la casa di Natalino in treno, infatti non ho un turista nel palo, quanti. Alla 1 però Giuseppe, si è compreso la mantova. A uno va bene lo stesso, ma lo stesso va bene da uno, è come la 5 più o meno. Te ne salvata per miracolo, perché con Natalino abbiamo cercato insieme, con l'antenna nessuno ne aveva, noi tutti che era fuori produzione. Solo uno ne ha trovato, che forse ne la buscava, non so come, non so quando, per la fine ce l'ha fatta. Thank you. giornata che è sulla Vulcani di Pelle. Vulcani di Pelle e anche TL. Poi la mantra ti dura una vita. Io, vabbè, io sono un po' pignolo, gli ho messo il grasso anche dove c'è il TL, di modo che non entri l'acqua, l'umidità. A volte c'è gente che ci mette il silicone per non entrare l'acqua attorno al piede dell'ossigeno, la gabbina si fa da silicone fuori fuori e c'è su e su. Quelle di plastica però col tempo, col sole si scaldano e si spaccano, ci puoi mettere un sesolante in quello buono ma senza avere problemi di spreco, ne devi mettere un bel po' di modo che non è la prima cosa che dici. Di quello biticino che è buono. Io dico una cosa, fallo una volta, bene, bene, non ci sarà, ci sarà. Ma la mia come l'ho piazzata, l'hai visto, l'hai visto. Io gli ho messo 9 tiranti, e l'ho messo giù e su, un po' più su e un po' più giù, più giù. Io c'ho un palo di 5 metri, se no che gli ho messo il mio palo di quelli di telescopio. Naturalmente gli ho lasciato l'anima dentro, era da 8 metri, 3 metri gli ho lasciati dentro, poi alla fine gli ho messo dove attaccare l'antenna un tubo d'acqua. Massimo 41, se 40 è meglio, fa che cosa del corpo da parte in parte del tubo. A fianco al cimitero vai, la marcita, dove è nato Nattalino, lì. Lì ne hanno quanti rifugi, ne hanno anche d'acciaio, tutti i rifugi. Non è acciaio pieno, no, è acciaio come il tubo dell'acqua, però è un acciaio. E prova a chiedere a Mario se te lo porta. Basta dare un taglio alla cala, non ce ne vuole di fretta, però comunque si è aspettata abbastanza a metterla. Ti saluto cordialmente. Va bene, dimmi, se ci vediamo domenica. E pensiamo tutto quanto, non c'è problema. Tu basta che recuperi, te lo dico subito cosa devi prendere. Il vulcanizzante, il nastro, e poi te l'ho detto, quelli se tu vuoi mettere, se li vuoi mettere, metti, se no fa come vuoi, io li ho messi, perché così, e dopo se domani sentiamo dico, ma sono in tira, e così, i tiranti, non si sono mossi un millimetro, no, non si è sciolto, e con quelli.